perché è riuscito a catturare nelle immagini quello che volevo trasmettere con le mie parole, e quindi sono molto contento e molto onorato. E poi anche con Matt e Bise sto lavorando anche con loro, nel senso che stiamo facendo diversi in store insieme e ci stiamo divertendo molto, perché sono due pazzi, e speriamo che magari in futuro possa nascere qualcosa di più rispetto all'in-store vero e proprio. Quindi anche con loro la potenza della rete, perché ormai è rispetto a quando avete avuto successo con i Lost, il mondo è cambiato, anche se in pochi anni, completamente da questo punto di vista. È cambiato perché quando siamo nati c'era un social network, adesso ce ne sono tanti, troppi, e quindi il pubblico si frammenta nelle varie stazioni. La cosa importante secondo me è rimanere con i piedi per terra e cercare di anche attraverso la rete mantenere un rapporto molto vivo e con chi ti segue, e questo secondo me è la chiave che ti permette di andare avanti. Vivo è forse anche vero, perché si accorgono di là della tastiera, dello smartphone, che cosa c'è dietro? Sì, si accorgono, e soprattutto poi adesso i ragazzi hanno una mentalità diversa. Prima c'era il cantante, che era il cantante irraggiungibile. Adesso invece anche la persona comune, diciamo, si sente anche importante e vuole e ottiene anche dei follower, come si dice, dei seguaci, mettendo foto, mettendo dei video, magari dove non si parla di arte, ma semplicemente per raccontare la propria vita. Quindi è cambiato proprio questo concetto. Adesso si mette in mostra la vita privata dell'artista, della persona, mentre magari prima era un po' diverso. Nel bene e nel male in questo? Nel bene e nel male, perché comunque questo ha un po', come dicevo prima, frammentato anche l'importanza dei vari social e del web. Questa pioggia d'agosto mi riporta indietro a un anno fa. Sotto il cielo di Roma, noi due di notte in giro fino alle sei. Non avevamo niente, ma ci bastava il nostro amore. Camminavamo per quelle strade immaginando solo di ballare. Ripenserai, ripenserai ancora a noi. Noi due sospesi tra due mondi dentro un oceano. Rispetto a qualche anno fa, tu sei cresciuto, ma è cresciuto anche il tuo pubblico. Questo che sensazione ti dà? L'hai sperimentato? Sì, ed è bello perché ho visto veramente crescere moltissimi fan con me, perché quando abbiamo iniziato con i Lost magari avevano 15 anni, adesso ne hanno 20, 25, e oltretutto è stato bello vedere con l'uscita del disco anche un pubblico molto vario. E anche più grande, ho visto anche persone di 40-50 anni all'in-store venire a farmi complimenti per la musica e per l'impatto, soprattutto quando sono sopra il palco, perché come dicevo prima, quando sono sopra il palco do tutto me stesso. Forse dovrei tornare tra la gente e lasciare la tempesta che è stata devastante. Cos'è questa tempesta devastante? quando mi sono ritrovato a ricostruire il mio cammino, chiaramente sono successe tante cose, non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche personale, e sono esplose tutto nello stesso momento. E quindi, secondo me, la cosa più importante era quella di ritornare da dove tutto era iniziato. Ovvero nel mio vecchio paese, dai miei vecchi amici, dalla mia famiglia, per ritrovare veramente lo spirito che mi aveva portato ad iniziare questo cammino nella musica con i Lost. Concludo con la domanda più banale, ma ti assicuro che sono sincera, perché voglio sapere quali sono i tuoi desideri adesso. Il mio desiderio è di continuare a suonare, di fare altri dischi e di poter continuare a fare musica, perché è l'unica cosa che amo realmente, e spero veramente che la gente riesca a percepirlo ascoltando questo disco e venendo ai miei concerti. Ed è tutto per l'appuntamento di oggi con Voci in Scena. Con noi c'era Walter Fontana. Ancora un saluto da Marta Cagnola.